Plus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:12 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi di maggiore attualità, è chiaro che oggi ci occuperemo della legge di stabilità dove sono iniziati non solo le dichiarazioni di voto e poi la prima chiamata alle 16:30. Il via libera definitivo da Palazzo Madama dovrebbe arrivare nel intorno alle 18 con questo programma ancora in onda, e con l'ok anche al DDL di bilancio. Il costo dei vari provvedimenti, secondo quanto emerso dalle ultime novità, è a questo punto di 35,4 miliardi di euro contro i 29 miliardi e 6 precedentemente previsti, e anche di questo parleremo, che cos'è che ha aumentato il valore complessivo della finanziaria, una finanziaria spesso fatta anche a deficit. Ne parleremo, poi ci sono chiaramente le conferme, Tasi, da un lato IMU, il rinvio dell'IRES al 2017, nessun aumento per l'IVA, che è quella che costa di più come misura, le famose clausole di salvaguardia, per eliminarla occorre tra l'altro che questo venga confermato, ma altrimenti sarebbero scattati 17 miliardi di euro di aumenti e quindi con una depressione immaginabile ulteriore dei consumi. E poi il canone RAI, il bonus ristrutturazione, gli incentivi all'assunzione, il limite dei contanti che è rimasto, lo sapete, una misura su cui noi eravamo molto molto perplessi. E poi le pensioni, niente flessibilità in uscita con alcune eccezioni, e ancora le parti IVA, la soglia massima di redditi per accedere al regime agevolato forfettario per i professionisti passerà dagli attuali 15 ai 30.000 euro, la tassazione fissa sarà del 15%, ma per i primi tre anni si fermerà al 5%. Ancora poi la carta famiglia e altre novità. Di questo parleremo in apertura. Tra l'altro su questo parleremo di finanziari, ma anche di scenari economici italiani. Lo faremo con chi da sempre studia le dinamiche di carattere globale, non solo quelle italiane, e mi riferisco chiaramente alla European House Ambrosetti, quella che organizza ogni anno il famoso convegno a Cernobbio con i big dell'economia mondiale, europea ed italiana, anche perché oggi si può commentare un ulteriore dato sull'export. Il surplus commerciale a novembre sale a 3,3 miliardi di euro, è salito complessivamente nei primi 11 mesi a 27 miliardi e 7 contro i 21,7 del 2014. Cosa vuol dire? Che la differenza tra quanto abbiamo esportato e quanto abbiamo importato è ancora più positiva, a vantaggio delle nostre esportazioni. Bene il dato di novembre, a 3 miliardi e 300 milioni di euro contro i 667, questo come saldo tra importazioni e esportazioni, i 667 milioni, dicevo, del novembre del 2014. È tornato a crescere anche l'export fuori dall'Europa, più 3,7%, più 3% complessivamente. Segni di ripresa, si parla di questo nel rapporto dell'Istat, perché anche a ottobre c'era stata una leggera crescita, ma quella di novembre più significativa. Le importazioni hanno fatto più 1,1, ma più meno 1,8 rispetto all'anno precedente. Poi vedremo anche dove si sono collocate queste esportazioni, visto che è un tema che seguiamo sempre e visto che il 2015 si era connotato soprattutto nella prima parte per un rallentamento dell'export complessivo. Ancora parleremo dell'ANCE, ossia delle costruzioni italiane, dove per la prima volta il settore più massacrato assieme all'automotive, ma a questo punto è rimasto da solo, più massacrato dall'intera crisi, sta conoscendo qualche segnale di risveglio, ma non nel 2015, nel 2016. Dove ci si attende, l'Associazione dei Costruttori Italiani si attende un incremento dell'1% in termini reali. Sul fronte privato, grazie alle agevolazioni fiscali, l'ANCE prevede un aumento ulteriore dell'1,5% degli investimenti in recupero abitativo. Faccio notare che la compravendita di immobili è salita del 5,3% quest'anno. Non è il valore degli immobili, è il numero di acquisti e vendite, però è di solito un indicatore anticipatore di un rialzo prima o poi anche dei prezzi. Più salgono le compravendite, più si creano tensioni sui prezzi. Nel 2016 dovrebbero salire del 13,5% le compravendite di immobili, con però prezzi stabili. La ripresa leggera dei prezzi delle abitazioni, chiaro che è una media, arriverà nel 2017. L'ANCE ha segnalato però anche una ripresa dell'occupazione del 2,5% nel 2015. Ci sono 2 miliardi di investimenti nella legge di stabilità, tra l'altro proprio di opere pubbliche, circa 2 miliardi rispetto, come aumento rispetto al 2015. E il giudizio del presidente dell'ANCE sulla legge di stabilità è un giudizio estremamente positivo. C'è un miglioramento anche nei pagamenti della pubblica amministrazione, ma i tempi sono ancora troppo lunghi. Di questo parleremo. C'è anche l'iniziativa a questo proposito dell'ANAS, l'operazione Basta Buche. È un augurio, immagino, perché insomma, un investimento di circa 300 milioni di euro in 3 anni, ANAS avvia il progetto di mantenere sulla rete stradale e autostradale una qualità più alta rispetto adesso, a partire proprio dalle cosiddette buche. 53 gare d'appalto per lavori su 25.000 chilometri di strade, con un importo massimo di 21 milioni di euro ciascuno. Sono 2 bande di gara e 51 gare per un importo massimo di 5 milioni di euro ciascuno. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Come sempre partiamo dalla borsa e dall'economia internazionale. Allora, le borse oggi sono tutte invariate: 0,06 Milano, 0,05 Francoforte, più 0,2 Parigi, Londra più 0,76, il Dow Jones più 0,26%. Non ci sono grossissimi spostamenti dentro il listino, eccezione fatta per Tenaris più 2%, Buzzi più 1,80, Luxottica più 1,40, Eni più 1,12, UbiBanca più 1%, CNH più 0,70, come Saipem, MDST, Microelectronics. Fronte opposto invece, Anima Holding meno 3,20, Campari meno 2,30, Unipol meno 1,70, Mediolanum meno 1,50, A2A meno 1,50 come Popolare di Milano, e Terna l'1,50 lo perde anche Finmeccanica e Fiat Chrysler, l'1% il caro di Snam, Exor ed Enel Green Power. Allora, per quello che riguarda le altre notizie, in breve invece partiamo dalla parte internazionale. Per quello che riguarda il petrolio c'è un leggero rialzo a $35,8, le quotazioni salgono dello 0,17%. Tra l'altro ieri si è saputo che con il crollo del petrolio c'è un vantaggio anche per la cosiddetta bolletta energetica italiana: risparmiamo quasi 10 miliardi. La benzina, segnala l'Unione Petrolifera, è scesa comunque di 17 centesimi al litro. Nel 2016, con un greggio stimato intorno ai $45-55 al barile, anche nel 2016 vi sarà un vantaggio da questo punto di vista. Certo, noi quest'anno abbiamo fatto un meno 22% nei costi per approvvigionarci di petrolio. In tutto abbiamo speso 34,7 miliardi, 10 miliardi in meno rispetto al 2014. Appunto, determinate il crollo della bolletta petrolifera in tutto questo, perché non, l'approvvigionamento energetico non è solo petrolio, che ha fatto 16 miliardi, ossia 35% in meno. È un risparmio che per inciso sarebbe ancora maggiore se l'euro fosse rimasto a quota 1,30-1,40, ma l'euro basso comunque dovrebbe avvantaggiare le nostre importazioni. A fronte di un calo del 47% del valore del barile, infatti, il costo del greggio importato in Italia è sceso solo del 36%, quindi se avessimo avuto un euro sui livelli dell'anno prima, del 2014, avremmo risparmiato quasi il 50%. Buono il dato sull'economia statunitense nel terzo trimestre, che cresce del 2%, anche se la stima precedente era del 2,1%. I consumi continuano a trainare la ripresa americana, più 3%, e tra l'altro l'aumento segue il 3,9% del secondo trimestre. L'economia è cresciuta in media del 2,3% nei primi sei mesi dell'anno, e gli economisti si attendono che anche l'ultimo trimestre per gli Stati Uniti segni un più 2%. Gli Stati Uniti fanno notare che la crescita americana continua, lo fa notare la Casa Bianca, però il rallentamento della ripresa globale pesa, mostrando l'importanza di politiche che promuovono una domanda forte, cioè i consumi interni. Questo andrebbe spiegato anche a Bruxelles e anche a Berlino, visto che la Germania, come racconteremo in questa puntata che vi invito ad ascoltare il 31 dicembre, dedicata al protagonista di quest'anno e dell'anno prossimo, cioè la Germania molto ha pensato che bastasse esportare e investire tutti i ricavi non a casa propria, con infrastrutture che sono relativamente scadenti e potrebbero essere ammodernate, ma reinvestire in impianti all'estero, convinta ormai di potersi basare soprattutto sull'export. Ebbene, la ricetta americana è che ci si basa più sui consumi interni che sull'export, anche perché poi, quando rallenta l'economia globale, come sta avvenendo, a questo punto hai diversificato la crescita e puoi crescere anche con i consumi interni. La Russia, allora, so che molti la pensano che le sanzioni verso la Russia abbiano seguito troppo in maniera pedissequa quella che era l'indicazione statunitense. Devo dire che l'obiezione è che se noi dovessimo fare sanzioni nei confronti di tutti i paesi poco democratici, beh, anche l'Arabia Saudita non è un paese della grande democrazia e non è l'unico, però il problema è che queste sanzioni alla Russia hanno colpito particolarmente alcuni paesi e meno altri. Uno dei paesi colpiti è l'Italia, e il Consiglio dell'Unione Europea ieri ha dato il via libera al prolungamento di sei mesi delle sanzioni alla Russia fino al 31 luglio 2016, dal momento che gli accordi di Minsk non saranno pienamente attuati entro il 31 dicembre 2015. La durata delle sanzioni è stata prolungata, mentre il Consiglio continua la sua valutazione ed il processo di attuazione. Secondo la Coldiretti, le nostre esportazioni di Made in Italy verso la Russia sono crollate quest'anno del 30% quasi. Pensate cosa avremmo fatto come dato sull'export, quello che ho appena ricordato, se vi fosse stato il mercato russo, un mercato fondamentale per noi, anche perché, come ci hanno spiegato più volte gli ospiti, nel mercato russo l'Italian sounding, cioè il cibo che assomiglia al cibo italiano ma non è italiano, non esiste. Cioè, il mercato russo era un mercato che comprava l'originale, e l'originale anche costoso, anche di qualità, per cui stiamo correndo il doppio rischio. Uno, abbiamo già corso di perdere quote di export, ma in aggiunta, che se continuerà questo embargo, prima o poi chi ha bisogno di prodotti russi, di prodotti italiani, in particolare il settore alimentare, ma non solo, andrà a rivolgersi a altri paesi e poi una volta che le quote tue le ha prese qualcun altro, è difficile nella vita recuperarle in tempi rapidi e appieno. Dicevamo, i settori più colpiti a partire dal 6 agosto 2014 comprendono frutta, verdura, formaggi, carne, salumi, pesce e tessile, arredamento e mezzi di trasporto. 20 milioni di euro più o meno nell'agroalimentare al mese di mancata esportazione, e si sommano ai danni appunto indiretti dovuti alla perdita di immagine del Made in Italy in Russia, con prodotti di imitazione appunto che poi tendono a occupare quei mercati. Faccio notare che era stata l'Italia lo scorso 9 dicembre a bloccare il rinnovo automatico delle sanzioni e a invocare una discussione politica più ampia nei rapporti fra Unione Europea e Russia, al di là del suo ruolo nella crisi ucraina. Faccio anche notare che questa era stata letta da alcuni come una mossa, diciamo, di politica estera del Premier Renzi e del governo, per alzare un po' la voce in Europa con vari meccanismi, tra cui questo. Abbiamo chiesto, l'ha fatto la nostra Alessandra Skepisi, al responsabile russo dell'ISPI se la decisione può essere vista come una sconfitta del governo Renzi e quindi di una scarsa rilevanza che può avere Roma nelle decisioni europee. Il nostro paese non ha la forza di riuscire a cambiare l'inerzia dell'atteggiamento europeo sulla Russia, però ha dato un segnale importante, non ha potuto insistere proprio per la sua relativa debolezza, ha dato però un segnale importante anche perché l'aria sta cambiando all'interno dell'Unione Europea, il desiderio delle sanzioni è diminuito, c'è la consapevolezza che bisogna recuperare i rapporti con la Russia, rimane naturalmente, come posso dire, l'inerzia di decisioni già prese, una ostilità radicata in alcuni paesi europei, la Polonia, i Baltici, la Gran Bretagna, che hanno un atteggiamento antirusso un po' persino a prescindere anche dalla crisi politica, ma altri paesi come la Germania sicuramente vorrebbero cambiare, modificare questo atteggiamento, tanto più che il fatto grave di questi ultimi giorni, vale a dire l'avanzamento del progetto per il Nord Stream 2, è chiaramente in controtendenza con questa politica delle sanzioni. Il governo italiano ha assolutamente ragione, a mio giudizio, a indicare quanto assurdo sia andare in un progetto energetico di questa rilevanza mentre si impongono sanzioni alla Russia. Al tempo stesso si collabora per un programma strategico di rifornimento energetico di queste dimensioni. È chiaro che la situazione attuale non può permanere, e quindi suppongo che tra 6 mesi le sanzioni verranno eliminate, o perlomeno bisognerà discuterne seriamente della loro opportunità, cosa che al momento non è stata fatta. E comunque, ripeto, del commercio con l'estero parleremo anche fra poco. Alcune notizie in breve. Mediobanca stima oggi nel rapporto Ricerca e Studi che con l'addebito in bolletta elettrica l'introito dal nuovo canone RAI aumenterebbe di circa 420 milioni, da 1 miliardo e 500 milioni dal miliardo e 569 milioni del 2014. Calcola il nuovo importo di 100 euro, un'evasione al 5% rispetto all'attuale 30%, la RAI diventerebbe il primo gruppo TV a quel punto per ricavi in Italia. L'INAIL ha acquisito 4 immobili storici da Euro SPA, pagandoli in tutto 300 milioni di euro, 297. Archivio di Stato, il Palazzo della Polizia Scientifica e i Palazzi delle Scienze, delle Arti e delle Tradizioni Popolari. E l'amministratore legato di Euro SPA, Enrico Pazzari, ha detto: con oggi si chiude una fase di grande incertezza dalla quale usciamo per imboccare la via che ci porterà al primo traguardo, la piena operatività della nuvola. Questo anche in vista dell'accordo siglato con le banche creditrici grazie all'acquisto degli immobili dell'INAIL a cui ho appena fatto riferimento. Vediamo le banche. Le banche di credito cooperativo, che sono escluse dalla riforma delle banche popolari perché riguarda banche con asset superiore agli 8 miliardi di euro. Su queste banche di credito cooperativo non vi sarà alcuna accelerazione per la riforma. Lo si apprende da fonti del governo. La tempistica resta quella indicata dal ministro dell'economia Padoan. Il testo sarà sul tavolo a gennaio, perché la questione è complessa, bisogna trovare il migliore equilibrio tra le esigenze dei territori, le necessità di rafforzare il sistema ed evitare, aggiungo io, visto il clima sulle banche, scivoloni. A proposito di banche e dei prodotti che vengono venduti allo sportello, oggi vorrei farvi ascoltare cosa ha detto il amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ospite a Mix 24 con il nostro Giovanni Minoli. Ha detto: la cosa più importante per la difesa del credito, con l'entrata in vigore del bail-in, è la chiarezza, che non è che sia l'emergenza, è la chiarezza sui rischi che un investitore prende, e questo deve essere chiaro dalla prima pagina del foglio di carta che ogni investitore firma. Senta, dottor Tronchetti, per essere chiarissimi, la difesa del risparmio col bail-in in vigore dal primo di gennaio è o no l'emergenza numero uno del paese? È la chiarezza, non è che sia l'emergenza, è la chiarezza su quali sono i rischi che un investitore prende e quali sono gli investimenti più sicuri. Questo deve essere chiaro sulla prima pagina del foglio di carta che un investitore firma. Senza questa chiarezza si rischia, spero non la valanga, ma certo la perdita di fiducia sì, e questo va evitato a tutti i costi. E poi la vendita di Pirelli ai cinesi, che secondo Tronchetti Provera è stato un passo avanti per l'azienda. Non vi sarà nessun licenziamento, anzi ci rafforzeremo, la sede rimarrà in Italia, la ricerca rimarrà in Italia. Per spostarla dall'Italia deve farlo il 90% degli azionisti, noi in questo momento manteniamo il 35% e nessun licenziamento in Italia. Tronchetti ha chiarito che sono 38.000 dipendenti nel mondo, a cui si aggiungeranno i 13.000 in Cina. Da erede di Gianni Agnelli a venditore della Pirelli cinese, un passo avanti o indietro? Avanti, noi perché? Rimaniamo azionisti, i cinesi ci danno in eredità fabbrica e mercato, la Pirelli è più forte. La sede rimarrà in Italia, la ricerca rimarrà in Italia, per spostarla dall'Italia il 90% degli azionisti deve volerlo fare. Oggi noi abbiamo il 35%. Ecco, e perché è sicuro di aver fatto il bene della Pirelli? Perché la Pirelli aveva una parte più debole, che erano i pneumatici autocarro, dal 15° posto, con questa che è un'acquisizione industriale per noi, diventiamo i quarti. Loro sono azionisti finanziari, noi siamo gestori industriali. Senta, ma non è che questa scelta porterà a licenziare in Italia e assumere in Cina? Assolutamente no, noi abbiamo 38.000 dipendenti nel mondo, ne aggiungiamo 13.000 in Cina, in Italia ci rafforziamo, in Cina acquisiamo un mercato enorme. Senta, lei il giorno della vendita ha parlato di nazionalismo di maniera contro chi diceva qualcosa, cioè? L'Italia diventa tutta nazionalista quando vuole criticare storie di successo. Era una bella storia di successo, lo è e lo dimostreremo. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dopo le informazioni sul meteo e la pubblicità, andiamo al primo tema, ossia la legge di stabilità, così come è uscita a questo punto dal Parlamento. Focus Economia. Allora, partiamo dalla legge di stabilità. Dino Pesole del Sole 24 Ore, come sempre la voce di Radio 24 anche quando parliamo di legge di stabilità. Buonasera Dino. Buonasera. Allora, vado su provvedimenti più noti. Tasi, vabbè, quello più celebrato e contestato anche assieme ai 3.000 euro. Abolizione della Tasi, la tassa sulla prima casa. Sparirà anche l'IMU sui terreni agricoli, sui macchinari imbollonati. E potrebbe invece essere aumentata l'IMU sulle seconde e terze case, 5 miliardi in tutto. IRES, spostata la riduzione dal 27,5 al 24,5 al 2017, l'IVA che non scatta, il canone RAI che scende da 113 a 110 euro, ma come stimava Mediobanca il gettito per la RAI potrebbe essere di gran lunga più alto, visto che dovrebbe crollare l'invasione, visto che sarà inserito in bolletta. Bonus ristrutturazioni prorogate per un altro anno, detratte dell'IRPEF per il 50%, mentre quelle legate al risparmio energetico detratte per il 65%. Gli incentivi a chi assume vengono prorogati. Se si assume un dipendente a tempo indeterminato, si converte un contratto a tempo determinato, però lo sgravio sarà meno generoso. Dagli 8.000 massimo euro attuali di contributi si scende a circa 3.000 euro. Per le aziende del sud invece la decontribuzione resta al 100% e quindi resta la soglia degli 8.000 euro. Limite dei contanti a 3.000 euro, pensioni niente flessibilità in uscita, però per chi ha più di 63 anni lavorare part time sarà possibile con una retribuzione quasi pari a quella ordinaria. Sale la no tax area per i pensionati, diventa per tutti 8.142, pari a quella dei dipendenti. Opzione donna cosiddetta potrà essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti autonome che raggiungono i 57-58 anni e 3 mesi di età entro il 30 dicembre 2015 o che compiono entro il 30 settembre 2015 i 57 o i 58 anni di età. I 35 anni di contributi vanno raggiunti entro il 31 dicembre. Chi opta per questa possibilità sostanzialmente può andare in pensione prima, ma con l'importo della pensione calcolato con il sistema contributivo. Partite IVA per accedere al regime agevolato forfettario, la soglia massima di redditi per i professionisti passa da 15 a 30 mila euro, tassazione fissa al 15%, ma i primi tre anni al 5%. Poi la carta famiglia destinata alle famiglie con almeno tre figli minori residenti in Italia, anche se stranieri, carta per sconti sull'acquisto di beni di prima necessità. Servizi, chiudo con il fondo di solidarietà per i piccoli obbligazionisti, ormai arcinoto. Il pacchetto sicurezza e cultura da 2,6 miliardi di euro, quello per ogni euro di speso per sicurezza e un euro speso per la cultura dai diciottenni, le assunzioni di medici e infermieri e la possibilità di pagare con bancomat e carte di credito anche spese minori come il caffè e il parchimetro. Allora, Dino Pesole, per te la domanda è molto semplice. La finanziaria è lievitata da 29 miliardi e 6 a 35 miliardi e 4, la legge di stabilità. Intanto perché e come si sono trovate le coperture? Beh, allora sì, intanto chiariamo un po' questo balletto delle cifre, perché poi come sempre non c'è molta chiarezza dai testi. Certo. Devo dire che un po' di chiarezza la fa il servizio del bilancio del Senato, che proprio pochi minuti fa ha reso noto un dettagliato dossier dal quale si apprende che in realtà la manovra del 2016 ammonta a 28,7 miliardi, che sostanzialmente è il totale, come dire, degli impieghi che vengono inseriti in questa manovra. Una parte, come sappiamo, non secondaria, più di 14 miliardi, è finanziata in deficit. Quindi questo è il primo punto. I 35,4 miliardi a cui tu ti riferisci sono reali, ma equivalgono a un altro indicatore che non è meno importante, che è il cosiddetto saldo netto da finanziare, vale a dire, per chi ci ascolta, il volume massimo dei titoli che si dovranno eventualmente mettere in campo per in aggiunta a quelli già previsti per la normale copertura del debito. Questi sono, insomma, più o meno le grandi cifre. Allora, le coperture sono, come dicevamo, per buona parte individuate aumentando il deficit. L'anno prossimo, invece di essere all'1,8 come era previsto all'inizio, saremo al 2,4, fermo restando che questo 2,4 dovrebbe essere garantito da un PIL in crescita dell'1,6%, perché come è noto l'anno prossimo, certo, sono due valori che si guardano, perché se la ricchezza del paese, questo è il PIL, cresce di meno, è chiaro che aumenta il deficit. Quindi si tratta, aumenta più che il deficit, aumenta il rapporto che lo interessa, deficit, PIL, certo. Quindi questo sì per quanto riguarda le coperture. Poi abbiamo la famosa spending review, che è una delle coperture più rilevanti, anche se non all'altezza di quello che si era ipotizzato, perché ricordo che in aprile, con il primo documento programmatico dell'anno, il governo sì, appunto, aveva indicato 10 miliardi, adesso siamo alla metà. Poi ci sono delle coperture una tantum, vale a dire delle maggiori entrate che derivano ad esempio da il gettito che verrà dalla cosiddetta voluntary disclosure, vale a dire dal rientro agevolato dei capitali esportati illegalmente, che anche questa è una copertura non da poco perché vale più di 2 miliardi, però è semplicemente un una tantum. Per il resto si tratta di spese che sono sostanzialmente, o spese o minori entrate, che sono poi la parte più rilevante della manovra ed è quella che potremmo definire la componente tra virgolette espansiva di questa manovra, che scommette sulla crescita, ed è tutto evidente. Ed è proprio quello che citavi prima tu, i 5 miliardi di riduzione della pressione fiscale attraverso la manovra sostanzialmente in gran parte sulla prima casa, l'abolizione della TASI e le altre misure che riguardano ad esempio i cosiddetti imbullonati o anche certo. Il superammortamento, insomma tutte misure che dal punto di vista fiscale dovrebbero spingere sul pedale della crescita e che però naturalmente bisognerà verificare un po' sul campo. Perché diciamo appunto tu ci costano 17, poi dopo il traffico darò la lista completa perché siamo un po' in ritardo, se no 17 miliardi la cancellazione dell'aumento di IVA e accise e poi il resto. 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, traffico prima. Focus Economia. Quindi le misure ci costano in tutto sui 24 miliardi, 27 miliardi, 17 miliardi di cancellazione, 27 miliardi scusatemi, aumento IVA accise, 5 miliardi da cancellazione TASI e IMU agricola, 17 miliardi vuol dire che non è scattata la clausola sull'IVA, 3 miliardi e mezzo per le misure antipovertà sulle pensioni, 1 miliardo e mezzo per la decontribuzione e meno tasse per le imprese, qui però... Diciamo, sono sparite, la riduzione dell'IRES è sparita. Come sono reperite? 13 miliardi da aumento obiettivo deficit che sale dall'1,4 al 2,2, 5 miliardi e mezzo da spending review, 2 miliardi da rientro dei capitali con la voluntary disclosure, 1 miliardo l'aumento del prelievo sui giochi, 600 milioni della cancellazione delle province, 5 miliardi di maggiori entrate per via della crescita economica prevista. E qui Dino, secondo me abbiamo già elencato le due criticità, però vorrei confrontarmi con te. 5 miliardi sono sulla speranza di una crescita che faccia l'1,6 e poi invece 13 miliardi sono di un aumento del deficit, se ce lo fa fare, appunto, che l'Europa deve farci fare, 5 miliardi e mezzo da spending review. Questo è lo schema di massima di questa manovra, si può ragionare sulle scelte che sono state effettuate certamente con i vincoli europei e la possibilità di fare misure effettivamente incisive, il governo ha fatto queste scelte, si possono discutere se era il caso o meno di concentrarla sulla casa o viceversa se concentrarla più sulla riduzione del cuneo fiscale, comunque insomma sono scelte di politica certo. economica e come tali vanno prese. Il problema di fondo è esattamente questo, cioè la scommessa di questa manovra è portare il PIL del prossimo anno, cioè la ricchezza del nostro paese, all'1,6% e questa è una scommessa impegnativa perché è chiaro che se questo obiettivo non si realizza tutto il resto ci gira certo. attorno e devo dire anche la spending review, perché avremo il nostro ospite Goodgeld, perché verrà presentata la nuova spending il 20 gennaio se ho ben capito, anche i quasi 6 miliardi di spending non sono da sottovalutare perché poi non è che poi quest'anno hai anche beneficiato di un petrolio molto basso, di un euro che si è indebolito. Vabbè, la cancellazione delle province sono risparmi sugli uffici. Io nel ringraziare Dino Pesole intanto, perché poi torneremo a commentare con lui, saluto anche Valerio De Molli, che è l'amministratore delegato dello European House Ambrosetti. Buonasera De Molli. Buonasera dottor Barisoni. Senta, adesso non la voglio interrogare sulla finanziaria, però la come spiegava molto bene Dino Pesole, si gioca moltissimo su un PIL che dovrebbe raddoppiare quanto a crescita economica. Voi avete presentato, ne abbiamo parlato, il World Business Forum Index, l'indice che mette in confronto l'andamento del settore viaggi d'affari, ha una correlazione molto stretta, strettissima con l'andamento del PIL. L'anno scorso prevedevate un più 0,7 del PIL, ci siamo, quest'anno prevedete per l'anno prossimo un più 1,6%. La sensazione che voi raccogliete però nei vari rapporti e incontri che fate in giro per l'Italia qual è? È una sensazione di moderato ottimismo, non a caso anche un mio intervento su Sole 24 Ore sul giornale titolava "Ci siamo rimessi in moto o in motorino?", punto di domanda. Decidiamo insieme se siamo in motorino o in moto, ma di sicuro stiamo andando in avanti e non indietro, che è un dato positivo. La nostra previsione, come giustamente diceva lei, ci orienta ad una forchetta più 1,6 più 1,8, che vuol dire una crescita significativa rispetto al punto dello 0,7-0,8 di quest'anno. Quindi in questo senso notiamo una certa positività molto forte in Lombardia, molto forte al nord, con delle tensioni invece o delle preoccupazioni al sud, dove ancora vediamo poca azione di policy, poca incisività e problemi seri di stabilità e di crescita. I numeri sono sotto l'occhio di tutti, ma voglio ricordarne solo uno in particolare, che poi sottolineeremo anche in un prossimo nostro documento. Se lei, dottor Barisoni, fa il raffronto tra il PIL della Grecia e il PIL della Germania, lei trova un dato che è quello greco, è posizionato al 68%. Se fa lo stesso parallelo tra il minimo in Italia, che è la Calabria, e il massimo in Italia, che è la Lombardia, lei ha un delta di differenza del 135%. Questo è a parità di potere d'acquisto. E ci tengo a sottolineare. No, questo è un dato molto grave, anche perché avevo letto proprio in questi giorni, oggi se non ricordo male, o ieri, vado a memoria, su Corriere della Sera, Galli della Loggia, proprio sul il sud dimenticato e abbandonato dal panorama, dall'orizzonte, dall'esperienza anche e dal dibattito, non se ne parla mai. Devo dire che il governo aveva promesso qualcosa in più per il mezzogiorno, si sono anche arrabbiati i giovani imprenditori quando furono a Capri a dire non c'è niente sul sud. È uscito qualcosa, penso alla decontribuzione che è al 100% per le imprese del sud anche nel 2016, manca un piano complessivo, però quello che lei ricorda è veramente impressionante, cioè che la differenza tra la Germania e il PIL pro capite tedesco, il PIL pro capite greco è minore della differenza che c'è tra il PIL pro capite lombardo e il PIL pro capite calabrese. E voglio dire, se uno pensa cos'è la Germania e cos'è la Grecia, capisce, ed è minore anche di tanto, nel senso che è quasi il doppio il dato. Esatto, esattamente così, è la metà. È la metà. E non è un caso, ma se guardiamo i dati del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto della Grecia, è il 25% sopra quello della Calabria, e quindi ci troviamo, e la Calabria è sotto le altre regioni, ma sono tutte lì vicino in una scala di arretratezza, di ricchezza e di crescita. Poi mi potranno dire attenzione perché c'è l'economia sommersa. C'è anche in Grecia quella, però è quella, cioè, nel senso che, con il massimo rispetto, per se lei paragona il PIL greco, cioè il reddito pro capite greco con quello calabrese, il nero, conoscendo ambedue le regioni, non dico che lo possiamo parametrizzare, ma è ben presente in tutte e due le regioni, con l'aggiunta in Calabria anche dell'economia criminale, che comunque tende a essere sempre un'economia nera. Nel caso greco sono entrati con il bazooka gli interventi di salvataggio estremi, eccetera, della nostra Calabria, del nostro sud, nessuno se ne accorge, nessuno fa nulla, nessuno dice niente, nessun intervento straordinario alle porte. Lei dice giustamente la decontribuzione, ma tu decontribuisci se hai un'attività, certo, hai un'impresa, hai un investimento, ma qui tocca attrarne, tocca mobilitare gli investimenti, le iniziative economiche. Basta guardare i numeri nell'insieme, è solo il 2% degli investimenti diretti esteri che va nel sud. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta. Chiedo scusa agli ascoltatori, a Valerio De Molli, c'è stata un'incomprensione con la regia, è stato interrotto l'intervista, chiedo venia, non dovrebbe mai succedere sicuramente in questo modo, non succederà più. Allora, Valerio De Molli, mi scusi, è caduta la linea e adesso la riprendiamo, perché si stava ragionando da questo punto di vista sul quello che è successo sostanzialmente per quello che riguarda il sud, cioè l'assenza totale di politiche per il sud, o meglio di un sud, e il dato che lei sottolineava era un dato impressionante, cioè il fatto che da questo punto di vista la differenza come reddito pro capite tra Germania e Grecia è la metà, è già una differenza enorme, della differenza che c'è all'interno di un paese come l'Italia tra una regione come la Lombardia e una regione come la Calabria. Tra l'altro non si poteva nemmeno così addurre l'evasione fiscale come elemento da questo punto di vista, perché è noto che c'è un grosso nero in Grecia, ma c'è un grosso nero anche in Calabria, e da lì le politiche che mancavano. Allora, dopo aver chiesto scusa a Valerio De Molli per come si è interrotta la linea, volevo capire, De Molli, se da questo punto di vista nella legge di stabilità, nelle manovre che bisognerà fare nel 2016, lei, ho capito, dà una priorità al sud ma anche alle imprese, perché l'altro grande assente di questa manovra a mio avviso è l'IRES, cioè si è optato per ridurre IMU e TASI e l'IRES viene tutta rimandata. De Molli. Sì, ma su questo certamente sì, noi più ossigeno diamo alle imprese e più le spingiamo ad investire e più acceleriamo la ripresa, quindi dobbiamo avere certamente un clima di euforia imprenditoriale, diciamo così, che spinga le aziende, gli imprenditori a fare investimenti in questo paese, che poi sono la premessa per generare occupazione, senza la quale non c'è crescita, da una parte. Dall'altra, il 60% del PIL si ancora ai consumi, quindi ho anche bisogno di dare risorse alle famiglie, dare risorse ai consumatori e incidere in una ripresa dei consumi. E poiché metà del paese è il sud e l'intero sud è bloccato da una non crescita, è impaurito, è ingessato, è chiaro che io, se non risolvo la matassa intricata di un sud che deve liberare la crescita, automaticamente zavorro il paese. Questa è un'equazione matematica, questa. Quindi devo certamente fare l'una cosa e l'altra, e il quadro di congiuntura macro, che per il nostro paese resta comunque favorevole, e cioè mi riferisco a un export che continua ad andare bene, mi riferisco a un dollaro che diciamo ha ceduto terreno, si è indebolito e quindi ci rafforza nella competizione internazionale, mi riferisco al petrolio che è ai minimi da 8 anni a questa parte, bene, se tutta questa, e non ultimo i tassi di interesse, non dimentichiamoci, non è stato celebrato molto, ma noi siamo andati, i nostri bot sono andati per la prima volta nella storia in negativo. Cioè, parlato a lungo qui. Ne avete già parlato. Sì. Arrivo buon ultimo, io non ho potuto sentire prima. Quindi in un quadro grandemente favorevole dobbiamo riuscire a fare quello scarto, quel cambio di marcia che ci consente veramente di riprendere a crescere. Ultima domanda, De Molli, visto che ne avete discusso a settembre, ne tornerete a discutere. che cosa, lo chiediamo sempre, potrebbe andare storto? Cioè le previsioni sono di una crescita non fortissima per un rallentamento complessivo a livello mondiale, ma per di una crescita. E anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, non il Brasile, la Cina un po' più lenta, l'India un po' più lenta, la Russia, ahimè, complice anche l'embargo ancora in recessione. Che cosa potrebbe andare storto? Ma guardi, intanto 1,6 o 1,8% che sarà la crescita 2016 rappresenta il probabilmente secondo o terzo più alto tasso di crescita di questo paese degli ultimi 20 anni. Quindi sarà anche una crescita debole, ma stiamo parlando di un dato importante. Cosa può andare storto? Il terrorismo e il fondamentalismo è sotto gli occhi di tutti. La tragedia a Parigi ha scosso le coscienze europee, ha colpito molto e certamente l'allarme non è debellato. Le nostre città non sono protette da questo rischio e così come quelle di altri paesi in Europa. Quindi è evidente che la magnitudine di un eventuale attacco su scala più ampia, su più nazioni, potrebbe avere effetti anche devastanti su questi tassi di crescita. Le economie emergenti sono tutte ingessate, cioè siamo passati in 3 anni da un mondo che veniva trainato dalle economie emergenti a un mondo dove al contrario le locomotive iniziano a diventare la vecchia Europa piuttosto che ovviamente gli Stati Uniti, o anche il Giappone ha fatto un segno più così alto come non aveva mai fatto negli ultimi 20 anni pure il Giappone. Abbiamo una Russia meno 5%, un Brasile meno 5%, un soft landing cinese che pur essendo positivo è comunque attorno al 6%. Quindi è evidente che il quadro internazionale è un po' fragile, soprattutto in quello che è stato uno dei motori degli ultimi 3 anni. E l'ultimo aspetto, peraltro non banale, proprio in Europa, è questo rischio di impasse politico-istituzionale europea. La Spagna è sotto gli occhi di tutti, sono totalmente ingessati, c'è l'ingovernabilità piena, ci sono 4 partiti che più o meno si equivalgono. E lì chi governa? È un punto di domanda molto forte. Poi quando lo stile politico mediterraneo, in questo siamo simili, è quello tu non capisci niente, sei un deficiente, so tutto io, e non è quello della conciliazione, non hanno la tradizione culturale come per esempio ha la Germania, che sono oramai decenni che viene governata con dei pentapartiti, dei pluripartiti, certo, che mettono insieme anche le opposizioni nell'interesse supremo e superiore del paese. Quelli si sono scannati fino all'altro ieri, come faranno a governare insieme non è chiaro. E gli stessi fenomeni, guardiamo Marine Le Pen in Francia, guardiamo l'UKIP in Inghilterra, guardiamo i pirati in Germania, Austria e così via. In altri paesi ci sono dei nuclei di estremismi politici che non sono lì per costruire, sono lì piuttosto per, certo, distruggere, no? Ecco, questo è un rischio oggettivamente. Grazie Valerio Demoli, vedremo. Intanto buon Natale, inizio con gli auguri di Natale a questo punto anche a lei e quindi al numero uno della European House Ambrosetti. Vedremo di capire se, e speriamo ovviamente, non si verifichino questi rischi. Traffico e poi borsa e costruzioni. Focus Economia. Allora, Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, giornata abbastanza piattina oggi, indici poco mossi, -0,20% Milano, 1,0970 invece il rapporto di cambio euro-dollaro. Tra i migliori ho visto Buzzi Unice in più, 1,70%, e partiamo da lì. E un certo recupero anche dei petroliferi, Eni più 1,12, Tenaris più 1,60, Saipem più 0,70. Sì, è proprio così, la giornata è stata tutto sommato poco mossa sul finale, nonostante un tentativo di recupero iniziale. Il miglior titolo sul FTSE MIB è Buzzi Unici in più 1,74 dopo che l'antitrust ha dato via libera alla proposta di acquisto di un ramo d'azienda della società Sacci, che è in concordato preventivo. Un'operazione che rafforza quindi la presenza di Buzzi Unici, che viene valutata positivamente dagli analisti proprio alla luce della futura concentrazione del settore cementifero in Italia. E dicevi bene anche del recupero dei petroliferi, e grazie anche in questo caso direttamente all'andamento del prezzo del petrolio, che dopo i recenti ribassi e la recente debolezza oggi sta mettendo a segno un recupero dell'1,62%, il WTI è a 36,39 dollari al barile, quindi salgono Eni più 1,12%, anche Saipem più 0,74% e Tenaris più 1,59%. Andiamo su altri titoli, invece abbiamo avuto una Rizzoli Corriere della Sera molto volatile dopo il buon andamento a luce del piano industriale, però tra i titoli più sottili, devo dire che alla fine perde il 5,90%. Pininfarina ha guadagnato anche oggi il 14%, ma come mai? Ma Pininfarina diciamo che è sull'otto volante dall'annuncio della vendita. Nel senso che il prezzo è ben distante da quello offerto da sicuramente oggi con gli indiani di Mahindra. Sì, con oggi è tornata al prezzo, anzi un pelo sopra il prezzo a cui quotava prima dell'annuncio della vendita a Mahindra. E Mahindra, che ricorderemo, acquisirà l'azienda a 1,1 euro per azione. Sì, ma scusami, com'è che ci spieghiamo questa cosa? Nel senso che il prezzo è tornato a 4,2 euro per azione. Sì. E loro lanceranno un'offerta pubblica a 1,1 euro. Esatto. Allora, o il mercato scommette che andrà deserta, prego. Ma diciamo che a 1,1 acquisiranno anche la quota del 76% in mano all'azionista di maggioranza, poi lanceranno l'OPA, e qui molti si interrogano sui nuovi motivi, come dicevi tu, di questo rialzo. O ci si aspetta alla fine se davvero vorranno delistare la società, un rialzo, un'offerta a rialzo rispetto alle attuali quotazioni, o questa oppure è si tengono dei soci di minoranza. Esattamente, di minoranza che la tengono, sì, quotata in borsa. È strano però che, allora, questo è sempre possibile, ci mancherebbe, però è strano che dopo essere arrivata quasi vicina, insomma non vicinissima, adesso sia risalita, cioè c'è qualcuno che compra convinto che o gli indiani aumenteranno il prezzo o si terranno dei soci dentro. Forse l'unica altra ipotesi è che creda nel progetto industriale e voglia rimanere socio di minoranza, però sicuramente certo, un movimento certo. Era molto più comprensibile dal punto di vista borsistico il crollo tanto, esatto. Seguito all'annuncio. Eravamo sui titoli più sottili, vi do i migliori e peggiori a questo punto: Ambra Immobiliare più 6,60, Gala più 6,30, Zucchi più 5,80, Piaggio più 4,30, fronte opposto Soft Strategy meno 6,20, Clabo meno 6, e appunto RCS Media Group quasi il 6% di calo. Tra gli altri titoli, Anima Holding meno 3%, Campari meno 2,5%, Unipol meno 1,90%, come la Pop Milano, Terna meno 1,80% come Mediolanum e Fiat Chrysler. L'1,60 lo perde Prismia, ne ha 2 all'1,5 il caro di Finmeccanica e di Enel Green Power. Grazie a Paolo Paronetto. Ultimo tema, il settore, come dicevo, assieme all'automotive, ma a questo punto era rimasto da solo, più colpito dalla crisi in questi anni è il settore delle costruzioni. Anche qui, con la massima prudenza, senza festeggiare, perché quando vieni da 8 anni di calo drammatico, oltre il 40%, c'è poco da festeggiare, però il 2016, stante i dati presentati oggi dall'Associazione Nazionale dei Costruttori, dovrebbe essere l'anno almeno della svolta, non del recupero totale magari, ma della svolta. Lo stima Lance, dicevo, un aumento sostanzialmente dell'1% negli investimenti del settore costruzioni e dell'1,5% in quello del recupero abitativo. Altri segnali sembrano andare in questa direzione: le compravendite immobiliari, che non sono i prezzi, ma il numero di operazioni sono salite quest'anno del 5,3%, l'anno prossimo addirittura più 13,5%. Presidente dell'ANCE, Claudio De Albertis, buonasera. Buonasera. Presidente De Albertis, quanto ci vorrà però per non creare illusioni? È sempre meglio un po' di recupero che il nono anno di calo, ma quanto sotto siete rispetto ai livelli del 2007-2008? Ma guardi, se guardiamo complessivamente gli investimenti in costruzione, dal 2008 al 2015 noi abbiamo perso più o meno il 35%. Per cui quando i nostri dati, e noi siamo abbastanza prudenti, ci danno per il 2016 un incremento dell'investimento dell'1%, è chiaro che noi possiamo titolare la nostra analisi inizia la risalita, e lo facciamo con grande soddisfazione da questo punto di vista. A determinare questa inversione devo dire che saranno nel 2016 soprattutto le opere pubbliche. Noi crediamo e stimiamo che ci sia un aumento di investimenti di circa 2 miliardi di euro, quindi una crescita in termini reali del 6% rispetto al 2015. Il comparto residenziale, soprattutto quello delle nuove costruzioni, ha ancora un segno negativo, però è un segno negativo anch'esso più ridotto. Nel 2016 noi stimiamo un meno 3,5% in termini reali, se lei pensa che nel 2013 eravamo a meno 13, nel 2014 a meno 13, sempre sull'anno precedente, nel 2015 a meno 6, quindi diciamo che possiamo guardare con un certo ottimismo in avanti. Ecco, senta una cosa, tra l'altro, visto che si parlava nella prima parte del programma della legge di stabilità, la legge finanziaria, come si chiama adesso, la proroga alle agevolazioni, alle ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica, voi vi aspettate che da lì arrivi, almeno da lì, un po' di investimenti nella parte che voi chiamate appunto recupero abitativo? Sì, noi tant'è vero che su quel comparto stimiamo un segno positivo, più 1,5%, che quindi non è male da questo punto di vista. Quello che noi valutiamo che abbia un'incidenza sulle transazioni immobiliari, sugli acquisti, sono sicuramente le importantissime norme di carattere fiscale sul settore immobiliare che sono state introdotte dalla legge di stabilità. Probabilmente non sugli investimenti, perché se lei sa benissimo che dal momento che uno decide di fare un investimento, quindi al momento in cui apre effettivamente un cantiere, che è quello che determina poi per noi la crescita degli investimenti, passa sempre del tempo, ma noi pensiamo che si possa passare dalle 440.000 transazioni immobiliari del 2015 a almeno le 500.000 nel 2016. E quindi c'è un incremento, anche se non, ed è il motivo per cui a voi la legge di stabilità piace, non c'è niente di male nel dirlo, D'Albertis, ma insomma... Guarda, io lo dico senza problemi, noi crediamo che sia un'ottima legge di stabilità, prima di tutto perché dà una vera inversione di tendenza, come le dicevo prima, un incremento delle nuove risorse stanziate, circa un più 4-5% in termini reali rispetto alla norma. Ci sono poi tutte le norme sulla fiscalità che sono importanti da questo punto di vista, la TASI, la proroga dei finanziamenti, come diceva, su gli interventi di riabilitazione abitativa, e poi non ultimo quelle che sono le detrazioni sull'IRPEF per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica, per cui il 50% dell'IVA può essere detratto dall'IRPEF, che non è poco. E a questo aggiungerei anche la novità sul leasing, sull'applicazione del leasing immobiliare, che diventa a questo punto uno strumento per vendere le case e che finanzierebbe quindi il 100% dell'acquisto, alternativo al tradizionale metodo attraverso i mutui. E siccome anche qui sono state introdotte delle agevolazioni fiscali, soprattutto per le persone sotto i 35 anni, ma non solo per loro, io credo che siano molto interessanti. Tra l'altro non solo per l'acquisto della prima casa, ma anche l'acquisto della seconda casa, anche per chi quindi ha voglia a questo punto di investire, di comprare una casa per investimento. Sui prezzi, questo lo dico perché arrivano molti messaggi, ma concludo io, in realtà sui prezzi un conto sono le compravendite immobiliari, un conto sono appunto le il più 5% nel 2015 e il più 13,5% nel 2016. Nel vostro rapporto invece i prezzi, bisognerà aspettare il 2017, aumenti nell'ordine diciamo dell'1,6%, per l'anno prossimo vi attendete prezzi o ancora in, non in calo come quest'anno, ma leggera flessione o stabili. Questa però è una media e ricordo che cambia molto dal tipo di residenza, del settore privato oppure uffici, l'area, ci sono aree che hanno avuto cali bassissimi, aree che hanno avuto crolli veri e propri. Comunque bene, noi speriamo che abbiate ragione, lo dico perché si dice in Francia che se non riparte il settore dell'edilizia non riparte il paese, quindi noi vi auguriamo in bocca al lupo a lei e a tutte le 20.000 imprese associate, grazie anche al presidente dell'ANCE Claudio De Albertis. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.